Allora, siamo in collegamento telefonico con Betta Cianchini per parlare di Ugo, volume 2. Betta, intanto ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla formula, Ugo. Come nasce tutto? Allora, nasce dalla mente malata di alcune attrici, autrici, registe italiane, romane, Francesca Stas, Cristiana Vaccaro, Cristina Pellegrino e Veronica Raimo, non solo loro, Arianna Dell'Arti, insomma c'è un bel parterre di pazze che hanno deciso non di fare un collettivo di donne come se avessimo bisogno di una teca sotto la quale, insomma, stare al riparo, ma di provare a stare su un palco con delle restrizioni, con degli inciampi notevoli, il primo dei quali è fare dei pezzi di massimo 8 minuti. Quindi ecco perché siamo tante, questa sera saremo 12, come nella prima serata di Ugo, i pezzi sono di massimo 8 minuti l'uno e poi sono pezzi dal taglio sicuramente contemporaneo, molto acido, siamo cattive ma non sporchiamo, insomma, quindi è un taglio un po' pericoloso. Proviamo, andiamo senza rete, soprattutto questa sera che è la seconda sera, nel senso che come puoi immaginare Federico, la prima sera abbiamo cercato di usare ciascuna un po' le cose che cavalli di battaglia, le cose su cui siamo più sicure. Sì. Adesso in poi invece cercheremo di provare con il pubblico dei pezzi mai provati, di scrivere cose nuove, quindi di metterci davvero alla prova. Senti, un bilancio della prima edizione? Allora, siamo molto molto contento perché il pubblico ha risposto benissimo, si sono divertiti molto, però c'era anche molta, appunto, il taglio era anche molto acido e contemporaneo, si parla anche di temi attuali, sociali, sempre, ripeto, in maniera molto acida e questo personalmente mi piace molto e tanti quindi, tanti stanno, ci hanno chiesto quando è che farete la seconda serata e quindi stanno tornando. Insomma, se già dalla seconda serata c'è una sorta di dipendenza, questo ci fa sperare bene, insomma. A febbraio ci sarà Ugo volume 3, insomma, diciamo che per il momento ci stiamo dando come obiettivo l'idea di fare un Ugo una volta al mese. Una Ok, volta al mese. bene. Senti Betta, ci dai anche i vostri riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, ti ringrazio. Intanto dico una cosa che poi può insomma, sicuramente interessare a voi proprio come radio attenta a certe dinamiche, sicuramente riconoscete. Con noi collaborano quelli di Tlon con la Tlon, così come lo pronuncio, è una realtà romana molto interessante, una casa editrice. Un teatro, una libreria. Loro sono a Piramide e collaborano con noi, tant'è vero che per prenotarsi, anche se potete venire direttamente alle 21 questa sera, via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio numero 4, nei locali di Radio Rock, per prenotarsi dovete andare proprio sul sito di Tlon. Tlon è una realtà molto molto interessante, ripeto, tra l'altro sono anche tra gli editori di Igor Sibaldi, ma ci tengo a dirlo, perché sono sempre in realtà da tenere sott'occhio. E quindi siamo contente e felici anche di questa collaborazione. E poi, come ti ripeto, Federico, è bello che insomma delle radio che ancora scalpitano in questo panorama disastrato si sostengano l'un l'altra, insomma, questo mi fa molto piacere tantissimo. Spero questa sera, insomma, che tu verrai, ovviamente. certo. Bene, fantastico, perfetto allora. Ok. Bene, Betta. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo.